24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. I cittadini chiedono trasparenza, vogliono sapere gli stipendi delle star, gli stipendi dei funzionari, vogliono trasparenza alla RAI, questo è un dato oggettivo. C'è qualcuno che non la vuole? Il direttore Gubitosi non vuole la trasparenza? Il direttore Gubitosi sta opponendosi a una legge dello Stato. È così, Brunetta ce l'ha con la RAI, Brunetta, non lo so. Ogni giorno Brunetta tuona contro la RAI e chiede trasparenza, per carità. Giusto. Allora, cari italiani, sono le 6:32 minuti e buongiorno a tutti con Miriam Lucchetti in redazione, con l'alpino Peter Bescapè che è tornato in regia. Titolo del Corriere della Sera. No, perché noi ce l'abbiamo a tormentone da un bel po', Ho letto, oggi, prima pagina. Caos sulla legge elettorale. Ma porca miseria, eppure era proprio la settimana, la 44esima, pare quella decisiva. Invece chissà, forse ci vorrà anche la 45esima per approvarla alla Camera. Staremo a vedere, non è detta l'ultima parola, staremo a vedere. Allora, apriamo il Parlamento, forza! Forza, dai! Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Allora, Mariona Dinolfi, come va? Buongiorno, bene, molto bene, caro milanista mio. Gobbo maledetto, schifoso. Però c'è una buona novità, cioè, non avete rubato domenica. Quando mai rubiamo uno Juventino? Noi nel dubbio abbiamo fatto squalificare Muntari, che è meglio evitare casini con la Juve mettendo in campo Muntari. Vabbè, insomma, comunque. Che dobbiamo aggiungere, basta, 2-0 a casa, 0-2 a casa, e va bene. Mariona Dinolfi, il gobba Dinolfi, ci ha portato via 3 punti. Voglio salutare Ermanno e Aurora Lussana, voglio salutare Aurora Lussana, eccoci, direttore della Padania. Beh, tu con la tua Atalanta, l'Atalanta ha vinto, vabbè, sei contenta, ecco. Certo. Perché sghignazzavi sul Milan che ha perso? No, io sono come te, comunque filo milanista, e quindi la Juventus è una squadra che non ha mai entusiasmato. Poi vabbè, io sto con le piccole patrie, quindi con le piccole squadre di provincia come l'Atalanta. Ah, pensavo il Milan, ho detto la Juventus, così subito i nostri ascoltatori ci mandano dei messaggi simpatici. Allora, storicamente la nostra succursale, quindi insomma salutiamo gli amici di Bergamo. Va bene, la succursale bergamasca è sistemata così. Allora, e da dove dobbiamo iniziare? No, prima della legge elettorale, che poi Maria Dinolfi adesso ci spiega tutto degli accordi, gli inciuci. Perché c'è Renzi che si accorda con Berlusconi che teme il doppio gioco con Alfano, minaccia di svelare il patto segreto con Renzi. Vabbè, ma intanto il pronostico più semplice, Mario: ce la fanno entro questa settimana a approvarla alla Camera, sì o no? Ma sai, l'approvazione alla Camera è tutto sommato secondaria. Il passaggio è cosa approvano. Perché se approvano l'ennesima legge disastro con una formula per il Senato, una formula per la Camera, dove il Senato sostanzialmente si regge con la proporzionale che uscita dalla Corte Costituzionale, siamo punti a capo, cioè non è cambiato nulla. Quindi noi dobbiamo avere secondo me, fare pressione affinché il patto delle riforme regga. Se il patto delle riforme non regge, anche per molte settimane, caro Alessandro, andrei avanti dicendo ecco qui la settimana decisiva. No, infatti, insomma, io continuo a contare, ecco, questa era la questione, cioè continuo a contare la prossima, la 45. Questo è un delirio, questa cosa è veramente un delirio. La novità, vabbè, in termini tecnici, c'è questo emendamento da torre, insomma, il nuovo capolavoro che sostanzialmente fa diventare la legge elettorale italiana, la legge elettorale una per la Camera, cioè l'Italia come quella con la col premio di maggioranza e il ballottaggio, sì. E per il Senato la proporzionale, cioè, votare con due sistemi elettorali diversi, una alla Camera e una al Senato, pare che questa possa essere una soluzione per farla approvare almeno alla Camera. Ma non è una soluzione, questo voglio essere chiaro, non è una soluzione. Tu, Aurora Lussana, siete appassionati l'impadania di queste vicende oppure dici ma no, questioni romane? Schifosi, ladroni. No, io credo che ci stupirà Renzi, perché visto in una settimana che il governo ha fatto il salva Roma, ha aumentato la TASE, lo 0,8 per mille, aumentato la benzina. Adesso ha aumentato la benzina, Renzi che ha aumentato la benzina, dai. E certo, c'è su lui, cosa dobbiamo dire. Ma era un vecchio decreto. Secondo me ci stupisce. Poi ti ricordi cosa ha detto quando si è insediato nel suo entusiasmante discorso programmatico? Che entro febbraio il mondo non fare, finirà per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia, quindi continuiamo a stupirci con questo governo dei ragazzi del Moretto, e secondo me la portano anche a casa loro la legge elettorale. I ragazzi del Moretto, questa non è male, il governo dei ragazzi del Una citazione di Chesterton, so che magari Alustana non frequenta Chesterton, è più a suo agio qui, ragazzi del Moretto. Preferisco Montale a Chesterton, Montatò, ciapa sua di Nolfi, preferisco Montale. Montale a Chesterton. Comunque, insomma, quindi della legge elettorale non ve ne frega niente, basta dire che Renzi ha aumentato la benzina e voi siete contenti così. Ma senti, nel 2006 si poteva riformare Camera e Senato, eravamo qui con un sistema che sarebbe stato almeno efficientato, perché c'avevi solo la Camera, era il Senato delle autonomie, il PD e magari anche Renzi e i suoi componenti di governo, no? Hanno affossato una riforma storica come quella del 2006 e adesso si mettono lì loro a riformare il paese, no? Si mettono lì loro, va bene. Allora, ma dalla legge elettorale staremo a vedere, però il caso politico che incredibilmente ha tenuto banco per tre giorni è stato il caso di Antonio Gentile, te lo ricordi, caro Mario Di Nolfi? Cioè quello... Tonino. quello per cui Renzi avrebbe detto ai suoi se Alfano metteva Cabrini e Cucureddu, sì, ci facevamo una più bella figura. Ma intanto sentiamo la voce, perché questo sottosegretario, che non è più sottosegretario, si è dimesso, è sconosciuto, venuto fuori alla ribalta, sentiamo la voce, ieri si è dimesso prendendosela un po' contro la classica macchina del fango, Antonio. Le posso assicurare sul mio onore e sulla mia reputazione che non sono intervenuto né sull'editore, né sono intervenuto sul giornalista, né sul direttore del giornale. È una notizia, dico, già consumata. Vabbè, questa era in mattinata da Belpietro. Sentiamo anche nessun avviso di garanzia per mio figlio, dice Antonio Gentile. Questa assurda vicenda trae origine dall'asserito coinvolgimento di un'indagine della persona di mio figlio, che non è stato preciso, mai raggiunto da alcuna comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria. Caro Marione, intanto Gentile, senza essere indagato, si è dimesso per questa vicenda. E infatti, già ti lamenti. Ma era una vicenda incredibile, come faceva a non dimettere? Ma come facevano a farlo se il sottosegretario? Appunto. Alfano a segnalarlo, cioè una cosa senza... No, adesso mi devi spiegare, però. È colpa di Alfano, è colpa di chi ce l'ha messo, è colpa di chi ha accettato questa cosa senza... Guarda, la cosa, come sapete, al governo funziona così. Cioè, non è che fai una trattativa infinita, dopodiché i partiti indicano i loro nomi. Ovviamente, fossi stato Renzi, avessi letto il 90 della Gentile, avrei detto a essere pazzi, questo è chiaro, insomma, lì Renzi si mette, ha fatto un errore di imprudenza, ma mi chiedo come faccia un partito come il Nuovo Centrodestra a proporre, poi nelle ore sostanzialmente in cui era scoppiato quello scandalo, ma al di là della vicenda giudiziaria, ricordiamo che in politica esiste anche il tema dell'opportunità politica, Io non è che voglio stare a mettere la croce in termini penali sul povero senatore Gentile, ma se tu senti le intercettazioni tra l'editore di quel giornale, lo stampatore, ti prende, veramente ti ghiaccia il sangue. Ti ghiaccia il sangue, è un'intercettazione pazzesca. Non puoi neanche lontanamente pensare che sia sentito. Vabbè, adesso c'è la conta ovviamente degli indagati. Adesso quello non è indagato e si è dimesso. Opportunità politica. Poi Aurora, ci sono 4 indagati nel PD. Sì. Dicono il Fatto Quotidiano subito titolo. E adesso sì, 3 o 4 c'è questo dibattito. Perché 3 o 4? Ne ho detti 4. Sì, siamo certi, siamo solo 4-3, non bisogna aggiornare ogni giorno. No, io avevo letto 3, ma poi sul Fatto di siamo 4 allora. 4 nel PD, sì, del PD. E allora ci si chiede, e allora questi che sono pure indagati, però c'è indagine e indagine, questo per dire, cioè, oppure no? Ma secondo me il PD si deve dare un codice di comportamento, un codice deontologico suo, nel senso deve fare una scelta. Renzi di sicuro si è screditato lui con la vicenda Gentile, perché se io mando un mio giornalista a seguire, che ne so, l'Expo, e dopo 2 ore rettifico, no aspetta, mando un altro, cioè voglio dire, sono io come direttore che mi squalifico agli occhi della mia squadra, no? Perché quando tu tentenni, dai un ordine, poi un controordine, sei tu che secondo me perdi autorevolezza. Però te lo ripeto, lui ci deve meravigliare, fa parte secondo me un po' del personaggio. Ancora meravigliare. Pare che abbia detto: io mi occupo e rispondo dei ministri, dei sottosegretari rispondono i partiti, che poi insomma quelli del PD indagati sono il partito e lui sempre il segretario, no? Mi sembra o no, Mario? Ma guarda, io dico, insomma, queste sono questioni alla fine tutto sommato di dettaglio, perché poi tutti le stanno scrivendo, ma cioè, il primo condannato è Renzi, cioè si sa che Renzi è condannato in primo grado per danno erariale, quindi non so di cosa Berlusconi, sentivo la marea berlusconiana parlare, Berlusconi è condannato in via definitiva per frode fiscale, cioè, non lo so, insomma non è questo il tema, la questione mi sembrava di opportunità rispetto a uno che 2 giorni prima aveva fatto chiudere il giornale, non aveva fatto uscire, insomma, ecco, questo è accusona, lui smentisce, dice non è vero. Lui smentisce, ma ripeto, dentro a quella vicenda, purtroppo la questione era, purtroppo per lui, la questione era la notizia del figlio indagato, quindi insomma, è come si chiama nel calcio, responsabilità oggettiva, insomma. Vabbè, non si capiva chi fosse il soggetto che era intervenuto per non far uscire la notizia, se non era lui è peggio. Mio piccolo è peggio, è c'è questo, chi insomma. Ci chiede, ma insomma la Barraccio è ancora lì, è uno degli indagati, la questione della questione della regione, però effettivamente la Barraccio è stata ritirata come candidatura in Sardegna perché non poteva concorrere in Sardegna secondo lo stesso Renzi, perché è indagata per rimborsi eccetera. Ripeto, secondo voi questa cosa smuove qualcosa nell'opinione degli italiani? No, non cambia nulla, è una chiacchiera giornalista, si incazzano un pochettino di più e basta. Mentre c'è chi mi chiede, chiedi a Miss Simpatia, non so chi sia Miss, chiedi a Miss Simpatia qual è il codice che regola la Lega. C'è un codice per la Lega, cara Miss Simpatia? Molti indagati nella Lega si sono dimessi da ruoli importanti, da ruoli apicali, da ruoli di vertice, da ruoli istituzionali. Poi ci sono anche recentissimi casi che coinvolgono mio carissimo amico Daniele Belotti, fu un eccellente assessore al territorio Regione Lombardia. È mio ospite alle 8.45, lo sai che è mio... Che si occupava dei mercati e delle fiere, una roba che conta. Sì. Fu indagato per una vicenda legata al tifo dell'Atalanta, no? E a dei presunti rimborsi. Tu lo sai che sarà pochi giorni fa la notizia che è stato prosciolto da tutto. Tu lo sai che non per questa vicenda, ma sarà mio ospite alle 8.45? Non lo sapevi. Daniele per me e per molti della Lega Bergamasca è veramente un esempio di correttezza prima ancora che politica umana. Sì. E quindi mi altero per parlare di una vicenda che mi tocca da vicino. Va bene, però è sulla questione codice interno, ma esiste un codice interno oppure no nella Lega, al di là di tutto? Sì, perché i leghisti che sbagliano hanno paura soprattutto dei militanti che si mettono a tirare pedate e badilate dopo le spoglie. Adesso, pedate e badilate, hai capito Adinolfi? Lì la questione la regolano così, mentre nel Movimento 5 Stelle la regolano un po' più cruentemente, garrotta e waterboarding pare che sia il nuovo sistema. A proposito di Movimento 5 Stelle, dopo la tua amata segreteria telefonica, caro Mario, vorrò capire... Parliamo del caso Pizzarotti. Vabbè, infatti voglio capire che sta succedendo lì. 24 mattino. Buongiorno Alessandro, ma una informazione, il cambio di passo del Mr. Bean di Firenze sono i 570 milioni a Roma e l'aumento della tassa, della TASI? Abbiamo completato la squadra dei ministri. E se lo stesso non c'è sta niente a fare. E se lo stesso e tiramma a camba. Monti era sempre in giro dalla Merkel a sentire cosa doveva fare per l'Italia. Letta ha girato tutto il mondo, andava da Obama, avanti e indietro. Speriamo che Renzi e i suoi stiano a casa a lavorare, come tutti noi. Altro che giri, gite in giro per il mondo. Ma che ci frega, ma che ci importa, noi ci mangiamo sta buona torta. E noi te dimo, e noi te famo, paga c'è il debito, non ce la famo. Intanto paga, poi protesta e raglia, che noi continuiamo a mangiare. Grillo dovrebbe ribattezzarsi Grill, perché i suoi parlamentari se li sta facendo alla piastra. Poi racondo e irsuto grillo, più ruggente dei leoni, se te rode il culo dillo, ma non rompe i coglioni. Ciao Milan, sono Peppa Pig, saluto il mio cugino di Goffi, ciao! Marione, oggi livelli straordinari. Oggi è un pubblico di psicopatici, sì, cioè, uno sta lì, ti scrive le note, ti scrive la rima, ti scrive la cosa. Cioè, stanno male. No, ma dai. Ti stai crescendo a LSD praticamente. Salutano il cugino di Peppa Pig, Mario Adinolfi, cioè, capito? Ma poi queste canterini, rime. Tutti canterini, rime rima, baciate. No, che fai a questo? E dillo anche tu che ti diverte, dillo, ammettilo che è un grande pubblico. Sono passati al livello pubblico psicopatico. Vabbè. Allora, la questione. Non c'è niente da fare anche, diciamo. La questione Movimento 5 Stelle. Allora, adesso attenzione, che come la fai la sbagli, cara Aurora. Vuoi subito sparare a zero contro il Movimento 5 Stelle? Così diamo il tuo account Twitter, il tuo Facebook. No. No, ti stanno simpatici. Ma sono sono da riportare all'ovile. Da riportare all'ovile. Attenzione, sì. Attenzione. Sì. Vuoi dare il tuo account Twitter, per favore? No, vabbè, ho qualche amico grillino, non... Sì, vabbè, cosa c'entra questo? No, cioè, stai cercando di salvarti così, no? No, nel senso mi hanno molto deluso quando hanno scelto, a differenza della Lega, di non combattere accanto a noi per impedire l'abrogazione del reato di clandestinità. Sì. Però ti stanno in aula e so anche in qualche commissione e quelli più preparati, più capaci, so che... Vabbè, ti stai salvando in corner, diciamo, si sta salvando in corner. Vabbè, se hai detto vanno riportati all'ovile. Allora, all'ovile della Lega, perché allora, secondo me troppi di loro sono all'ovile leghista. Sono leghisti sì. Nascosti. Secondo me ci sono tanti criptoleghisti fra i grillini. Leghisti delusi. Che adesso le europee capiranno qual è il vero movimento identitario, sovranista e voteranno la Lega. Oh, finalmente, Mario, così lo spottone per la Lega lo abbiamo fatto. Meraviglioso. da questa conversione nazionalista della Lega. Fantastico. No, vabbè, ma su questo ti sei su questo Mario, ti sei già Mario, ti sei già espresso su questa la scorsa settimana già. No, però la nazione non coincidono. Eccola, basta, hai fatto partire la Lussana, adesso basta, ti deve fare un trattato storico e geopolitico. No, sto facendo il coniglio per stasera. Stai facendo il coniglio? Ma che stai facendo il coniglio? Ma che vuol dire? Sì, perché dopo devo andare in redazione. Stasera quando torno alle 11 devo. Ma sono le 6:52, Mario, di qualcosa come una massaia di Voghera. Sta facendo una casalinga che prepara il coniglio per la sera. L'ha ucciso con un mucchio. Scusa, non c'è nessuno che mi prepara da mangiare quando torno. Questa non è male, l'avrà ucciso con un mozzico. Si sveglia. Ammazza il coniglio e via. Si sta, vabbè, cari ascoltatori, dopo magari se abbiamo un attimo ci dici la ricetta in due secondi, però sì. Vorrei prima, Mario, che succede nel Movimento 5 Stelle? Succede che un branco di inutili soggetti cerca di capire come guadagnare più soldi e avere la sopravvivenza assicurata a termini politici, e Grillo ha perfettamente ragione a fare quello che fa. Mettesse, rompe le scatole, i voti li ha presi Grillo e li ha presi su una linea sola. Sì, ma adesso questa, tutti a casa, ma anche questa cosa con Pizzarotti. Miseria umana la definirei, per un po' di tenerezza nei confronti di questi. Insomma. Sì, però anche la vicenda. Ma che doveva fare Grillo? Per andare a sedersi e guardate, io sono amico di Renzi e voglio bene a questo tentativo, ma immaginate che Grillo si deve sedere e dire: no, adesso trattiamo i dettagli sulla legge di stabilità prossima. Ma io su questo ho sempre detto poi che fin dall'inizio che il Movimento 5 Stelle o lo controlli, essendo appunto dei signori nessuno quelli andati in Parlamento, o lo controlli un po' col pugno di ferro, che il che da fuori appare come qualcosa di autoritario, oppure ti sfugge di mano perché non c'è una storia, non c'è un percorso, non c'è. Sì, però anche questa vicenda di Pizzarotti, cioè che Pizzarotti fa un incontro, l'incontro non era concordato con la rete. Ma sta bene a controllare tutto. Ma ho capito, su questa cosa è impossibile farne diversamente. D'altronde la storia di tutti i movimenti politici, da Forza Italia al PDL alla Lega stessa, è piena di espulsioni, lo fanno, è inevitabile, quando tu devi controllare un movimento che ti esplode diciamo sei mesi diventa una cosa da 20%, ma come fai a fare se non fai così? Ti metti a fare le correntine, la corrente dei sindaci pizzarottiani, questa roba può fare solo il PD, che ha diciamo la storia per poterselo permettere, ma il 5 Stelle deve essere governato in quella maniera, l'azione è quella di Casaleggio, il pugno di ferro anche mediatico è quello di Grillo. Così possono pensare a continuare a esistere. Se fanno sette aree di finto pensiero diverso, si estinguono. Quindi Pizzarotti fuori dalle balle, questo è. No, fuori dalle balle no, ma Pizzarotti sa già, vedrai che farà i suoi passi indietro. Pizzarotti è sveglio, vuole fare due mandati da sindaco. Adesso due mandati. Va bene, Aurora, abbiamo 20 secondi. Una ricetta in 20 secondi, ce la sai dire? Qual è il. Coniglio? No, allora, il coniglio lo fai a pezzi, adesso l'ho passato nella farina bianca, lo faccio rosolare un po' col vino bianco e poi mentre faccio la rassegna stampa, magari sento anche te il Daniele Verotti, viene pronto, lo lascio lì poi stasera, lo riscaldo. Perfetto, ma già fatto, è già venuta l'acquolina in bocca, va bene, vi ringrazio allora, coniglio, come si chiama? Coniglio saltato? Alla bergamasca. Coniglio alla bergamasca con un po' di polenta, ma ovviamente. Grazie Aurora Lussana, direttore della Padania, e Maria Dinolfi. Alla prossima! Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17, eccoci nuovamente in diretta per la rassegna stampa, cari ascoltatori, e il mio invito è sempre il solito, dai, il famoso e celebre schema Allegri, no? gli ha portato molto bene. Dai, dai! E allora, cari ascoltatori, di che parleremo oggi alle 8.15? Approfondiremo alcuni temi, uno su tutti, la nuova proposta è venuta da un avvocato, da Michel Hunziker, Giulia Bongiorno e Michel Hunziker, che fanno parte di un'associazione per la tutela delle donne, hanno proposto, udite udite, uno stipendio per le casalinghe. Care casalinghe che magari siete all'ascolto in questo momento, uno stipendio per le casalinghe, perché questo aumenta la loro indipendenza economica, e quindi, secondo Bongiorno e Hunziker, aumenterebbe anche la loro capacità di resistere alle violenze. L'indipendenza economica è uno degli aspetti importanti per una maggiore autonomia, ma insomma tutto questo è sostenibile da parte dello Stato, da parte dei conti pubblici. Ne parleremo con Federica Rossi Gasparrini, che è presidente nazionale Federcasalinghe, è stato anche sottosegretario al lavoro. Avremo con noi ospite anche Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico, che su questo tema si è espressa in maniera molto chiara e netta e contraria. Dalle 8.15 poi avremo ospite Daniele Belotti, che è segretario provinciale della Lega Nord a Bergamo, ha fatto un'iniziativa di cui vorremmo discutere, per un signore che ha trovato un ladro in casa, lo ha ucciso, è stato condannato per questo, e Daniele Belotti insieme ad altri si è espresso chiedendo la grazia per questo signore, ne parleremo più avanti, come detto. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. Questo martedì 4 marzo sono l'Ucraina e la situazione politica, con le dimissioni del sottosegretario Gentile, le due notizie più importanti sui giornali. Il Sole 24 Ore apre così: l'Ucraina affonda le borse, mentre per il Corriere della Sera Europa e USA avvertono Putin. Per il Messaggero: Ucraina, l'Europa si spacca, mentre il Secolo XIX, Ucraina, la rivolta dilaga. Per il Manifesto: la guerra va al mercato, si estende in Ucraina la rivolta filorussa. Mentre Libero fa questo titolo, che chiaramente è anche un gioco di parole abbastanza esplicito: va tutto a Putin. Il nuovo zar invade la Crimea, minaccia di prendersi mezza Ucraina. La politica invece per Repubblica: Gentile si arrende, mi dimetto, salta il sottosegretario del nuovo centrodestra. Per la Stampa: risolto il caso Gentile, si complicano le riforme. Ricordo che è in corso la 44esima settimana decisiva per la riforma elettorale, e lo vedremo, pare che ci sia stato un problemuccio. Renzi sotto ricatto, la legge elettorale è il titolo di prima pagina per il Giornale, mentre il Fatto Quotidiano: il cinghiale si dimette, ma la Barracciu e gli altri. Il cinghiale, così viene definito Antonio Gentile, la Barracciu è il sottosegretario insieme ad altri indagata, scrive il Fatto, insomma loro che fanno. L'Unità: Gentile costretto a lasciare, mentre torna l'Ucraina su Avvenire, morsa russa sull'Ucraina. Io però voglio iniziare a leggere un articolo, ce ne sono tanti per la verità, di polemiche, anche di contrasto. Da una parte la vittoria della grande bellezza, no, agli Oscar, e poi la grande bellezza, quella vera, non un film, quella culturale, quella storica, quella archeologica italiana, che va a pezzi. E molti giornali fanno questo paragone impietoso. L'ultima vicenda è quella di Pompei, dove un paio di giorni fa ancora tre crolli negli scavi, e ci sono tantissimi articoli che si concentrano su quello che è un dramma che viene riproposto quotidianamente, di tanto in tanto, e per il quale non si fa nulla in concreto, come scrive molto bene Gian Antonio Stella oggi in prima pagina del Corriere della Sera sotto il titolo «Il tesoretto per Pompei». È lo 0,56% quello speso finora. E beh, sono cifre impietose quelle che scrive Stella. Un 178esimo. Ecco quanto hanno speso del tesoro stanziato per salvare Pompei. A ogni pioggia ormai c'è un crollo, l'ultimo ieri, il terzo in 3 giorni, eppure in quasi 3 anni, dei famosi 105 milioni di euro tanto sbandierati, ne hanno scuciti 588 mila. È lo 0,56%. Colpa di chi? Di tanti, ma soprattutto di regole, schemi, meccanismi burocratici ormai più vecchi, più decrepiti e più marci delle rovine lasciate al degrado. E poi continua all'interno, nell'intera pagina 25, Stella. Lo sanno tutti da anni che su Pompei ci giochiamo la faccia, sanno che gli schiavi e che gli scavi versano in condizioni pesanti, che le domus aperte sono una piccola minoranza rispetto a quelle chiuse, che l'incuria giorno dopo giorno sbrana i mosaici, sgretola le mura, gonfia affreschi sempre più malandati e destinati presto o tardi a creparsi. Eppure, mentre i soliti fatalisti se la prendono con la scalogna, Giove pluvio, il buco dell'ozono, la pioggia che tormenta o paese do sole, quelli che hanno in mano il destino di Pompei sono impantanati da anni. Nel febbraio 2010 il direttore degli scavi, Antonio Varone, scriveva al ministro Bondi: «È ben noto come un notevole numero di edifici di Pompei antica versi in condizioni di degrado statico dovuto alle malte stanche che li cementano e alle intemperie. Si ravvisa la necessità, a breve, di provvedere per l'incolumità del pubblico e la salvaguardia stessa del bene archeologico all'identificazione di murature ad immediato pericolo di dissesto statico, onde procedere all'eliminazione dei pericoli richiamati». E Gian Antonio Stella ripete quella parola: a breve si ravvisa la necessità, a breve, scriveva nel 2010. Sono passati più di 4 anni da allora, neppure il crollo della scuola dei gladiatori l'autunno seguente, crollo sbrigativamente imputato a Sandro Bondi, è servito a lanciare l'allarme sull'urgenza assoluta di fare in fretta. Nell'aprile 2011 fu lanciato il piano per la Grande Pompei, 105 milioni di euro, approvato in giugno dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Ebbene, di quei soldi, scrive Stella, sono stati spesi 588 mila euro, solo lo 0,56% dei soldi annunciati. Per forza poi viene giù tutto è una frase che ha usato anche l'UNESCO, Pompei, ultimatum UNESCO, a pagina 5 della Stampa: intervenite o viene giù tutto. Come racconta Giacomo Galeazzi, ancora un crollo, aperta l'ennesima inchiesta, oggi il vertice straordinario al Ministero col neo ministro Franceschini, c'è anche l'intervista all'ex sovrintendente a Pompei, Pier Giovanni Guzzo, archeologo di fama mondiale, che dice: la manutenzione non c'è più, ci sono solo interventi mediatici e manca un progetto per la crisi. Ecco, anche questa è la grande bellezza che perdiamo. A questo proposito il giorno si concentra su un'altra situazione che è magari più sotto traccia, ma che da giorni è drammatica: le mura di Volterra ferite a morte, crolla anche lo sperone di roccia, così il giorno a pagina 7 con Ilenia Pistolese e Paola Zerboni. A Volterra scrivono: Piazza Martiri della Libertà, ore 16, il gigante di calcarenite squarciato da una crepa sempre più profonda crolla su se stesso all'improvviso, come un Gulliver ferito a morte che nemmeno tiranti contrappesi riescono più a tener su. Gli operai che stavano lavorando alle mura di Volterra fanno in tempo a urlare via tutti e si vede sgretolare un altro dei simboli di Volterra a meno di un mese dal crollo delle mura medievali all'alba dello scorso 31 gennaio. A Volterra la situazione è con 52 frane attive e fessure che si aprono su ogni versante della città murata, con il sindaco Marco Buselli con gli occhi gonfi di lacrime che dice: non ho più parole. Gli sforzi fatti in questi giorni per tentare di frenare l'evoluzione della frattura si sono vanificati col collasso. Ora la città ha bisogno di fatti e non solo di parole traboccanti di solidarietà. Insomma, è un paese che non riesce proprio a valorizzare, anzi vede sgretolarsi il proprio patrimonio culturale storico. Voglio segnalarvi queste notizie prima di andare in pubblicità, due veloci. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi fa il primo viaggio istituzionale all'estero e va in Tunisia. E oggi allora Stefania Craxi scrive una lettera che viene pubblicata dal Giorno a pagina 10 presidente renda omaggio a Craxi, cioè a suo padre sepolto a Hammamet. Signor Presidente, scrive Stefania Craxi a Renzi, voglio credere che la scelta di dedicare il suo primo viaggio in terra straniera alla Tunisia abbia un senso più alto di quello che gli organi di informazione hanno inteso. Spero sia la manifesta volontà di rinnovare i già solidi rapporti con un paese che ha scelto la via della democrazia. E vabbè, questa fa un'introduzione. Ma poi il succo della lettera è questo: non le sfuggirà che sotto quei cieli, in un piccolo cimitero cristiano, ai piedi della Medina di Hammamet, riposa un grande italiano. Bettino Craxi. Proprio nel momento in cui il suo partito sceglie di aderire a quel PSE che Craxi contribuì a fondare, mi augurerei che da parte sua ci sia un pensiero per un patriota che ha amato l'Italia e gli italiani. Un omaggio a Craxi, all'uomo, al socialista, al presidente del Consiglio. Non perda questa occasione. I conti con la storia possono essere rimandati, ma non all'infinito. E la sinistra italiana non sarà mai mondata dal suo peccato originale fin quando non farà davvero i conti con Craxi e con la sua esperienza politica e di governo. Così Stefania Craxi scrive a Matteo Renzi, renda omaggio a Craxi, cioè a mio padre sul Giorno. Vabbè, prima della pubblicità, di continuare con le altre notizie, riprendere le notizie politiche. Avete sentito di Fiorello che ha fatto un incidente, ha travolto un pedone con la sua Vespa, foto ovunque, dichiarazioni ovunque, pagine ovunque, soprattutto Fiorello che, secondo l'amico Marco Baldini, in ospedale dice: vabbè, ho più punti dell'Inter. Aurino Mila, un giornalista da parte alta della classifica, nonostante il cognome, sì, certo, mi sono pure sovrapposto, ho sentito parte alta della classifica, ho perso la testa, non so più cosa voglia dire quella roba lì. Va bene, allora, cari ascoltatori, siamo ancora in diretta. La notizia politica del giorno certamente sono le dimissioni del sottosegretario Antonio Gentile. Dopo le pressioni nei suoi confronti, le tante richieste a dimettersi, visto che Gentile era stato nominato sottosegretario alle infrastrutture, ma pochi giorni prima si era aperto il caso perché era stato accusato di aver fatto pressioni per bloccare la fuoriuscita del numero dell'Ora della Calabria, nella quale si parlava di un'indagine giudiziaria che riguardava il figlio. Ebbene, dopo il fuoco di fila, le polemiche, Gentile si dimetta, alla fine il senatore del nuovo centrodestra si è dimesso da sottosegretario. Articolo bloccato, Gentile lascia, così titola Il Sole 24 a pagina 11. Barbara Fiammeri racconta: l'annuncio delle dimissioni arriva in serata, torno a fare politica nelle istituzioni come segretario di presidenza e nella mia regione come coordinatore regionale, aspettando che la magistratura, coi suoi tempi che mi auguro più brevi possibile, smentisca definitivamente le illazioni gratuite di cui sono vittima. Per la verità, poi il procuratore di Cosenza, in maniera molto rapida, ha fatto sapere che in realtà Gentile non è indagato. Certo, ci sono alcune intercettazioni telefoniche, le testimonianze del direttore dell'Ora della Calabria, che dice: ho subito pressioni molto chiare attraverso lo stampatore non pubblicare quella notizia. Io ho tenuto duro e alla fine cosa successe? Successe che, dice il direttore dell'Ora, per vicende, come dire, coincidenze anche abbastanza misteriose, casualmente la tipografia si è rotta proprio il giorno della messa in stampa. Direttore dell'Ora della Calabria, Luciano Regolo, che viene intervistato da Repubblica e dice: grazie a chi si indigna, questo è il paese pulito. Non mi aspettavo le dimissioni, non perché non fossero dovute, avevo perfino detto che era assurdo promuoverlo sottosegretario, uno che aveva anche il fratello Pino assessore regionale nello stesso settore delle infrastrutture, ma il sottosegretario aveva gettato perfino ombre su presunte macchine del fango in azione contro di lui. Ecco, questo passo indietro è una vittoria civile e la dedico a tutta la mia redazione dell'Ora della Calabria, ai colleghi che fanno questo lavoro con spalle larghe in condizioni complicate, e anche ai miei genitori. Così il direttore dell'Ora della Calabria viene intervistato da Repubblica. Certo, la vicenda la vicenda è chiusa, lascia strascichi di polemiche notevoli. Intanto, in un retroscena pagina 3 a firma Alberto D'Argenio su Repubblica, Renzi ha fatto sapere che la sua linea era quella di non intervenire. Io di questa vicenda non me ne occupo, così ha detto ieri Matteo Renzi, è stato gentile a mollare perché io mi rispondo dei ministri mentre dei sottosegretari rispondono i partiti. Questa è la linea che ha tenuto fin dal primo momento Matteo Renzi, ma racconta Repubblica che in realtà ieri si sono sentiti per due volte al telefono Matteo Renzi e Angelino Alfano per discutere di legge elettorale, e tra poco vedremo come, ma certamente hanno discusso anche di questa vicenda. Sta di fatto che, scrive Repubblica, Renzi è tornato più volte sull'argomento anche dopo le mozioni di sfiducia presentate da SEL e Movimento 5 Stelle, dopo la presa di posizione di Scelta Civica, al moltiplicarsi degli attacchi. Renzi ha detto ad Alfano nel pomeriggio di ieri: la situazione è destinata a peggiorare. E a quel punto Alfano ha dovuto riconoscere la pericolosità del caso, ha alzato bandiera bianca e ha invitato il sottosegretario Gentile a dimettersi. Certo, ora si apre un altro caso, perché il Fatto Quotidiano lo mette proprio come titolo di prima pagina. Il cinghiale si dimette, così viene definito Antonio Gentile, ma la Barracciu e gli altri? Ci sono per il Fatto altri definiti impresentabili, la Barracciu per l'appunto, Lupi, ministro Bubbico, De Caro e De Filippo, sono indagati a vario titolo. Ci sono tutte le loro situazioni raccontate da Marco Palombi a pagina 2 del Fatto Quotidiano, ma tutti i giornali pongono: e adesso che succede con gli altri? Beh, per esempio Umberto Del Basso De Caro, intervistato da Concetto Vecchio a pagina 4 di Repubblica, dice: io non mi dimetto neanche per sogno, inizia così, ma non ci penso affatto. Io sono indagato per una cosa che fa vomitare, una cosa per la quale non c'è la legge, non c'è il regolamento e quindi nemmeno il reato. Beh, sono rimborsi non rendicontati, indagato per rimborsopoli, ma sono 500 euro al mese, ma se c'era la legge che me lo imponeva, io secondo lei non facevo la scheda carburante? Che poi mi dica un po', chi chiede le mie dimissioni? Sentiamo. L'opinione pubblica, sottosegretario. Ah, l'opinione pubblica. E questo sentimento popolare ora è sconcertato dal mio avviso di garanzia. Ne dubita? Che peraltro non ho mai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini, che come sa riconnette all'indagato numerose facoltà, che peraltro non ho ricevuto alcuna richiesta di rinvio a giudizio, che peraltro richiesto dal PM ho prodotto una congrua memoria difensiva, ma onorevole si fermi, che peraltro mi sono sottoposto a interrogatorio, dopodiché non ho saputo più nulla, nel frattempo sono diventato pure deputato. Vabbè, insomma, ma Gentile dunque ha sbagliato a dimettersi? Non lo so, non mi importa, non entro nelle decisioni degli altri. Se poi bisogna trovare uno da crocifiggere, non mi farò crocifiggere. Sono stato chiaro? Vabbè, quindi Del Basso De Caro si difende così. Non ci sono interviste ad altri che sono indagati. La Barracciu ha già parlato nei giorni scorsi. Filippo Bubbico, viceministro dell'Interno, e Vito De Filippo, e poi c'è anche il ministro Lupi, scrive il Fatto Quotidiano, che è inquisito dalla procura di Tempio Pausania per concorso in abuso d'ufficio per la nomina dell'autorità portuale del Nord Sardegna. Che faranno? Staremo a vedere. Intanto l'altra notizia del giorno dal punto di vista politico è lo stallo sulla legge elettorale. Ora, io lo so che voi adesso aspettate che io possa dire cosa devo dire. Siamo nel pieno della 44esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, e questo è chiaro. Era tutto ieri almeno abbastanza in linea per concludere almeno alla Camera tutto questo entro venerdì. L'approvazione della legge elettorale, c'è stata una piccola complicazione. L'accordo ancora non c'è, così titola il Corriere della Sera, Italicum, l'idea di congelare l'entrata in vigore. Alessandro Trocino racconta: varare entro la settimana una riforma completa della legge elettorale, ma con una data di entrata in vigore posticipata di 18 mesi. in modo da poter complicare la riforma del Senato. Ecco la proposta nuova di mediazione portata dal premier Matteo Renzi, che ieri ha incontrato Verdini, Gianni Letta per Forza Italia, ha sentito al telefono Angelino Alfano, come abbiamo detto. Non avendo ancora certezze, l'assemblea del gruppo PD prevista per le 20 di ieri è stata rinviata e poi aggiornata stamattina, e oggi il testo della legge elettorale arriva alla Camera. Alle 11 il comitato dei 9 verifica l'ammissibilità dei circa 40 emendamenti presentati ieri, e dalle 16 di oggi il testo passa al voto in aula con la discussione. Cosa fa discutere? Sono tutte cose tecniche. C'è l'emendamento Lauricella che subordina l'entrata in vigore dell'Italicum alla riforma del Senato, ma c'è anche un altro nuovo emendamento, l'emendamento Dattorre, del senatore Dattorre, minoranza del PD, che prevede l'applicazione della riforma alla sola Camera dei Deputati e non al Senato. Si lavora dunque per trovare un accordo. Sta di fatto che i cittadini non capiscono solo che non si riesce a fare, o si riesce a fare con grande complicazione, questa legge elettorale. Quello che si capisce a leggere tutti i giornali è che il patto tra Renzi e Berlusconi su questo rischia di saltare. Chi lo scrive esplicitamente così è La Stampa, con il titolo «Legge elettorale rischio crack». A pagina 7 con Ugo Magri, che scrive: siamo a un passo dalla rottura del famoso patto tra Renzi e Berlusconi, che tanto fece parlare il 18 gennaio scorso quando venne siglato. Il presidente del Consiglio Renzi pare deciso a mettere in discussione quello che per il Cavaliere è un caposaldo irrinunciabile dell'intesa, la nuova legge elettorale in vigore da subito e senza indugi. Durante un colloquio pomeridiano con Verdini e con Letta, lo zio Gianni, Renzi ha prospettato il via libera all'emendamento del bersaniano Dattorre, che verrà votato a Montecitorio con altri dello stesso tenore stasera o al più tardi domattina. Questo emendamento mira a sopprimere l'articolo 2, limitando l'applicazione della riforma alla sola Camera dei Deputati. Su questo rischia di rompersi il patto, tanto che anche in un retroscena Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 9, scrive: il fastidio di Berlusconi, che teme il doppio gioco, gli impegni non sono mantenuti. E siccome gli impegni non sono mantenuti, ieri Berlusconi ha incontrato Gianni Letta e Verdini, i quali erano appena stati da Matteo Renzi, gli hanno riferito la situazione. Troppi impegni non sono finora stati mantenuti, ha detto Berlusconi ai suoi ambasciatori, e quindi la minaccia, scrive il Corriere, è questa. Siccome c'è l'inadempienza del protocollo che Renzi aveva firmato, scritto tutto nero su bianco, l'ex premier minaccia di rendere pubblico tutto ciò. Perciò ieri pomeriggio ha inviato da Renzi anche Gianni Letta, segno che non si fidava più della mediazione gestita dallo stesso Verdini senza la presenza appunto di Gianni Letta. E anche Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, intervistato da Repubblica su questa pagina 6, dice: ci siamo fidati, ora il premier non sgarri, perché se salta l'accordo per Silvio cambia tutto. Insomma, rischia su questa legge elettorale non approvata di saltare tutto anche per Libero. Il Cavaliere è stufo e avvisa Renzi, o con me o con Alfano. E anche il Giornale, guardate, i titoli sono tutti dello stesso tenore: finisce la luna di miele, il Cavaliere deluso da Matteo si è già piegato ad Alfano. Cambiando, rimanendo nella politica, vicenda che si complica per Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia, ora senatore del nuovo centrodestra, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di corruzione. Corruzione Formigoni a processo, a pagina 23 del Corriere della Sera. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano: il mio metodo di fare le vacanze è quello completamente autopagato, mai avuto bisogno di farmele pagare, assicurava Formigoni al Corriere. Era il 17 aprile 2012. Se qualcuno mi ha pagato un aereo sarà stato remunerato, perché io gli ho offerto il ristorante piuttosto che i souvenir, aggiungeva. Dopo 3 giorni aveva però aggiunto: non ho tenuto, le ho buttate, a proposito delle ricevute, dei rimborsi, delle spese anticipate dal suo amico Pierangelo Daccò. Ora che sono passati 2 anni, nella ringa difensiva i Benefit sono diventati, definiti così, un esempio di ospitalità totalizzante, come quando si danno le chiavi di casa a un amico e nel frigo c'è anche un salamino. Se avesse trovato quelle ricevute, ieri l'ex governatore PDL della regione Lombardia avrebbe magari evitato di essere rinviato a giudizio come promotore dentro la regione di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, formata col suo potente segretario generale Nicola Sanese e il direttore generale della sanità Lucchina, in tandem con i mediatori d'affari di area Ciellina, Daccò e Simone, ed intesa con gli ex vertici delle fondazioni sanitarie private Maugeri e San Raffaele. Questa è l'accusa. Il GIP Paolo Guidi ha infatti accolto la richiesta dei PM e ha disposto che il 6 maggio cominci il processo a Formigoni, altre 9 persone, associazione a delinquere. Questa è l'accusa. L'accusa è l'appropriazione di indebite di 73 milioni della Maugeri, 9 milioni del San Raffaele. Insomma, questa vicenda va a processo. Problemi giudiziari invece anche per Grillo, un processo che si è concluso, 4 mesi a Beppe Grillo. Questa è l'accusa, è la condanna per avere violato i sigilli del TAV. No TAV, Grillo condannato. E apre tra l'altro un nuovo fronte, la scomunica per Pizzarotti, cioè è stata una giornata del leader del Movimento 5 Stelle tra la condanna, 4 mesi per violazione di sigillo inconsapevole nella questione dei Notav, tanto che già si ironizza, Notav a sua insaputa, ma la vicenda forse politicamente più interessante è quella del nuovo fronte aperto di polemica con Pizzarotti, sindaco di Parma, che ha proceduto a un incontro con dei sindaci. Ebbene, questo incontro, scrive nel suo blog, su Twitter per la verità, Beppe Grillo, non è stato in alcun modo concordato con lo staff né con me. Una replica di Pizzarotti, sempre su Twitter, è stato organizzato come quello dello scorso anno, se fare rete non va bene, fate voi. Tanto che ora anche il Fatto Quotidiano titola: il nemico ora di Grillo è Pizzarotti, sindaco scomunicato via Twitter. Anche La Stampa titola così: Grillo contro Pizzarotti, l'incontro con i sindaci non è stato concordato. E chiaramente tutti si chiedono, sarà la prossima epurazione, sarà il prossimo che rischia di saltare, il sindaco di Parma, quello che è stato e che è il simbolo del primo sindaco di una città importante del Movimento 5 Stelle? Staremo a vedere anche qui. Intanto il traffico e poi ripartiamo dalle notizie estere, a cominciare dall'Ucraina. Alessandro Milan, il Dante Alighieri dell'informazione. Eccolo là, il Dante Alighieri dell'informazione. Grazie cari ascoltatori per tutti questi spot, come possiamo definirli, spot, queste siglette, continuate a mandarci, noi le mettiamo e ci divertiamo molto. Intanto in Ucraina la situazione è sempre molto molto tesa, sull'orlo della guerra, dopo che la Russia, per contrastare la fuoriuscita del presidente Yanukovych, ha invaso la Crimea. E ovviamente ci sono tantissimi articoli ovunque per spiegare qual è la situazione, anche da parte dei corrispondenti. Segnalo soprattutto l'articolo interessante del Sole 24 Ore sulla questione delle ripercussioni possibili per questa crisi nell'Europa orientale. Le ripercussioni sono soprattutto per il mercato dell'energia. Come scrive Federico Rendina in prima pagina del Sole, i manovratori del gas italiano tranquillizzano, parlano di forniture regolari al momento e anche se dovesse concretizzarsi lo scenario peggiore con l'interruzione totale del gas russo che transita dall'Ucraina, l'Italia se la caverebbe. Ma basta spostare solo un po' la visuale, affidandoci alla diagnosi degli analisti che non si fermano alla congiuntura immediata, per scoprire uno scenario assai più allarmante. È calma apparente, insomma, scrive Rendina. L'inverno col suo picco stagionale di consumi sta per finire, gli stoccaggi sono pieni ancora a metà, a stemperare la domanda c'è la crisi che ancora incombe, ma a salvarci appunto la combinazione tra congiuntura economica e stagionale. L'apparenza rassicura, ma gli esperti no. Insomma, crescono i pericoli per l'Italia per quel che riguarda gli approvvigionamenti del gas. D'altronde, come scrive sempre Il Sole, prendiamo oltre un quarto del nostro gas dalla Russia proprio attraverso l'Ucraina. Quasi un terzo invece viene dall'Algeria, il resto dalla Libia e dai due soli rigassificatori pienamente attivi. Il vecchio impianto Snam a Panigaglia e quello di Rovigo, e quindi dipendendo molto da quel gas c'è il rischio e la minaccia di rincari. Cari italiani, state attenti alla bolletta. Io vi dico solo questo: attenzione prossimamente alle bollette del gas. Sempre per rimanere in ambito estero, ha colpito molto la notizia del sindaco di Londra Boris Johnson, uno che le spara sempre grosse, ma in un'intervista al Daily Telegraph ne ha detta una abbastanza gigante, che insomma fa discutere molto. Togliamo i figli agli estremisti islamici. Ecco la proposta shock del sindaco di Londra, pagina 17 di Repubblica, la trovate anche sul Corriere. Lo Stato dovrebbe togliere i figli a estremisti radicali e sospetti terroristi islamici per affidarli alle cure dei servizi sociali e quindi in retrospettiva offrirli in adozione ad altre famiglie più rispettabili. Questo ha detto il sindaco di Londra, suscitando ovviamente dibattito, polemiche, eccetera. Ma certamente la notizia ha fatto scalpore. Vabbè, dal punto di vista delle notizie estere che sono però sui giornali, è arrivata dall'estero, non ne parlo, ma tutti i giornali dedicano pagine e pagine alla vittoria, la grande vittoria degli Oscar. D'altronde i giornali in questa arrivano un po' in ritardo. Ieri Radio 24 per tutta la giornata, dalla diretta della notte, ha raccontato la vittoria per il miglior film straniero della Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. E trovate ovviamente interviste in tutte le salse, racconti in tutte le salse di questo trionfo italiano. Una notizia prima della chiusura da Repubblica: il killer che da 10 anni vive in ospedale. C'è al Niguarda di Milano un ergastolo dorato, così viene definito, di un boss, il boss Francesco Cavorsi, 51 anni, di San Giovanni Rotondo, trapiantata a Milano negli anni 90, che è agli arresti ospedalieri di fatto, perché è in situazioni di salute molto gravi e ha l'ergastolo e costa 700 euro al giorno, questo il suo ricovero, al Niguarda di Milano, questo da 10 anni, lo racconta oggi Repubblica. Va bene, siamo al momento conclusivo e oggi è strepitosa la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Stravince Libero con Claudia Casiraghi, già il titolo è questo: il trapianto di barba. Sapete che la barba pare vada di moda adesso tra gli uomini, e quindi ci sono dei trentenni glabri, non abbastanza irsuti, che pagano la chirurgia plastica per farsi il trapianto di barba. Gente che spende cifre folli, fa sapere Libero, fino a $8,000 per avere una barba da farsi così rimpolpare, perché non hanno abbastanza peli. Ma io, se ne incontro uno, lo prendo a schiaffi a due finché diventano dispari, questo mi verrebbe da dire. E poi soprattutto, amici di Libero, ma dedicare una pagina intera al trapianto di barba, ma che dite, ma la carta non costa? Costa. 24 mattino. Sono le 8:19, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, la proposta è arrivata da due donne che da anni lavorano insieme, sono l'avvocato ed ex parlamentare Giulia Bongiorno e la star televisiva Michelle Hunziker, loro che da anni sono impegnate in un'associazione per contrastare la violenza sulle donne, hanno lanciato il classico sasso nello stagno. Due giorni fa hanno proposto di riconoscere quello di casalinga come un vero e proprio mestiere, un lavoro dunque da pagare. Certo, c'è da dire, l'avvocato Bongiorno e Michel Unzi che hanno fatto un discorso più ampio, hanno legato tutto questo alla necessità di rendere le donne sempre più indipendenti economicamente, perché dicono la dipendenza economica rischia di aumentare gli abusi, l'esposizione agli abusi da parte delle donne. E su questo, e se su questo possiamo essere d'accordo, cioè sul fatto che la civiltà di un paese chiaramente si misura anche dal numero delle donne, dalla percentuale delle donne che lavorano, è però il senso economico della proposta che ha innescato il dibattito. In Italia ci sono 5 milioni di casalinghe, e quanto andrebbero pagate? Da chi andrebbero pagate? A quanto dovrebbe ammontare questo, non so, sussidio dello Stato o questo salario vero e proprio, essendo riconosciuto come mestiere? Quanto costerebbe tutto questo alle casse pubbliche, che già languono parecchio? Ne vogliamo parlare con intanto Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Buongiorno, ciao Giulia, eccoci. Buongiorno qua. A voi. Saluto anche Federica Rossi Gasparrini, che è presidente nazionale Federcasalinghe, è stata anche sottosegretario al Ministero del Lavoro. Buongiorno e benvenuta, presidente, eccoci qua. Buongiorno. Allora, intanto lei, che la cifra è giusta, 5 milioni di stime di casalinghe, sono di più, di meno? Sono di più, di secondo più. I nostri dati siamo oltre 7 milioni. Ah, oltre 7 milioni, quindi dobbiamo aggiornare anche le cifre al rialzo. Che ne pensa di questa proposta? Ma sulla base della logicità siamo assolutamente d'accordo. Deriva da una valutazione fatta in America sul calcolo di quanto vale proprio il lavoro familiare, il lavoro svolto dalle donne nell'ambito familiare. E quindi è uscita una cifra eccessivamente alta, anche per creare dibattito, di 7.000 euro al mese, che corrispondono, ripeto, al valore del lavoro svolto da una donna nell'ambito della famiglia se si dedica a tempo pieno. Che chiariamo, non è quello che come ipotesi potrebbe essere pagato, perché 7.000 euro al mese sarebbe un segno. Tanto a Buongiorno e Hutzinger per la scesa in campo, ma in Italia da alcuni anni il lavoro delle donne, il lavoro familiare, è riconosciuto come lavoro. Su questo siamo riuscite ad arrivare in porto e viene considerato lavoro di tipo autonomo. Quindi il valore e il riconoscimento di ciò che fanno le donne c'è. Ma non c'è quell'altra parte, appunto, virgola da pagare. Quella parte, esiste, così, diciamo, non c'è la parte volgare del salario, ecco, mettiamola così. Però la parte riconoscimento del lavoro familiare come lavoro a tutti gli effetti è stato ormai sancito da Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e anche dal Ministero del Lavoro. Però se, diciamo, 7.000 euro al mese è il valore quantificato del cosiddetto lavoro domestico, questo negli Stati Uniti, cioè quanto, però quanto è ipotizzabile, tenendo conto anche delle disastrate casse pubbliche ovviamente, quanto è ipotizzabile come sussidio secondo lei, quanto potrebbe essere proposto se venisse riconosciuto come lavoro a tutti gli effetti quello della casalinga? Esiste, noi avevamo fatto un calcolo in Italia, eravamo state più basse, noi però eravamo arrivate dai 3 ai 4 mila euro come valore. Adesso il problema è quanto in effetti la collettività, perché le risorse economiche di un paese escono oggi poi con l'euro in modo purtroppo assolutamente rigido dalle tasche dei cittadini. Appunto. Noi pensiamo questo, che e stiamo preparando una squadra in questa direzione. Vogliamo che alcune donne diventino sindaco di alcuni paesi. Ne abbiamo candidate alcune come liste indipendenti. Ammettiamo che arrivino e che facciano risparmiare al comune il 20%. Sì. Allora noi diciamo che la metà di quel 20% che una donna brava nell'amministrazione, una manager della famiglia, che è in grado di amministrare bene, sì, fa risparmiare, la metà deve essere ridistribuita sulle casalinghe del territorio. Del territorio. Vabbè, quindi è quasi un'iniziativa però locale, cioè non vi spingete a chiedere al governo un vero e proprio sussidio, no? Noi saremmo pronte, più volte l'abbiamo chiesto, Ma sa cosa succede? Chiudono subito le porte in faccia. Tutti, non è me lo può quantificare? Me lo può quantificare quanto potrebbe essere? Secondo lei, se fosse lei il governo, lei presidente del Consiglio, Federica Rossi Gasparrini, proporrebbe quanto di stipendio? Dato che la legge equivale il lavoro della attualmente nella norma uscita al lavoro del metalmeccanico, al valore del lavoro del metalmeccanico, quindi a quei livelli. 1200 potrebbe essere uno stipendio. E quando, secondo quanto è la dichiarazione sul lavoro familiare come lavoro vero. Certo, allora io dico a tutti, anche coloro che mandano messaggi a dire ecco 4.000 euro al mese vado a fare il casalingo, no caro ascoltatore, cercate di capire, questo è il valore quantificato di ciò che è prodotto dal lavoro domestico, ma Federica Rossi Gasparrini ci dice, insomma, se dovessimo quantificare in un mondo ideale, in un'utopistica Italia, potremmo proporre 1.200 euro al mese, cioè quanto lo stipendio di un metalmeccanico. Allora io vorrei arrivare a Giulia Innocenzi. Giulia, tu ieri ti sei scagliata molto nei confronti di questa proposta, per carità, l'hai criticata abbastanza, mi pare, su Facebook. E perché? Cosa non ti piace di questa idea dell'avvocato Buongiorno e di Michele Unzica? Ma io sono assolutamente d'accordo che le donne, anzi, oltre il lavoro, cioè la funzione delle donne di educazione, cioè creano questa società. Ma perché solo le donne? Cioè in Italia gli uomini lavorano, tornano a casa, non fanno niente, le donne, quelle che lavorano, tornano a casa e poi si sobbarcano non solo del lavoro familiare, qua parliamo di uno stato sociale inesistente e quindi le donne hanno sulle loro spalle la cura dei figli, la cura degli anziani e quindi tutto il sistema familiare. Allora io dico, anziché cristallizzare questa situazione, preferisco combatterla e dire: diamo alle donne gli strumenti per scegliere se vogliono lavorare o se vogliono stare in casa e pensare alla cura della famiglia. Invece in questo paese le donne non hanno libertà di scelta, anziché dare 1200 euro alle casalinghe, che poi appunto anche tante precarie allora magari starebbero a casa, perché 1200 euro oggi è un signor stipendio, ma a parte questo, anziché dare lo stipendio alle casalinghe, perché allora non pensare a un investimento, ma questo veramente ingente, per gli asili nido, i congedi parentali, gli incentivi all'imprenditoria femminile, che oltretutto in questo periodo di crisi sarebbero un volano per l'economia, si calcola addirittura, e questi sono calcoli che fa l'Europa, se noi avessimo un tasso di occupazione femminile pari al livello standard europeo, perché in Italia neanche una donna su due è occupata e quindi siamo come sempre sotto in fondo alla classifica europea, addirittura dopo di noi c'è solo Malta, quindi ci giochiamo questa posizione con la Grecia, spesso diciamo sempre c'è dopo di noi la Grecia, questa volta neanche c'è la Grecia, e quindi ci sarebbe un incremento del 7% del PIL, cioè qua si parla anche di un investimento per l'economia. No, ma infatti tu dici, a parte che sulla questione gli uomini poi vengono a casa e non fanno niente, ammettere di avere un po' sobbalzato sulla sedia, perché questa è forse un'idea di famiglia un po' più all'antica, no? No, questi sono i dati purtroppo, perché voi uomini ti assicuro, nella categoria tornate a casa, non fate niente. Ma ti assicuro che non le è così, ma non è così. Ulteriori quando tornano a casa per la cura della casa. Ma non è così, adesso mi scaglio contro di te, non è così. Assolutamente. Ci sono dei dati che dicono che è da quando i bambini hanno 10 anni che cambia la cura della casa tra bambino femmina e bambino maschio, e cioè si indirizza la bambina a cominciare a tenere cura della casa. Io sinceramente un modello di società così non lo voglio. Mi sei diventata un po' Laura Boldrini in questo momento, però. No, perché Laura Boldrini ha detto proprio questo, l'immagine dell'emancipazione delle donne. No, no, ma io sono per un progresso, non sono per una crisi. Ma questo sì, no, ma a me interessa molto, mi interessa, adesso uscendo da questa polemica, scherzavo anche un pochino. Mi interessa molto il discorso che fai, cioè a dire, invece di dare un sussidio, che questo aumenterebbe anche il numero di donne che magari, tu dici anche precarie, che avendo questa possibilità starebbero a fare le casalinghe, invece diamo la possibilità di aumentare il numero di donne che lavorano, cioè dando appunto investimenti in asili nido, sgravando tutti i compiti della quotidianità, insomma non è questa la strada, Federica Rossi Gasparini, invece che creare un esercito? Però voglio mettere un punto drammatico. Cosa stiamo a dire? Mandiamo le donne a lavorare fuori casa, perché in casa lavorano, puntualizziamo, lavorano in casa. No, ma questo non c'è dubbio, però il rischio dice Giulia Innocenzi. Abbiamo un lavoro fuori casa, che non c'è lavoro, cioè o ci guardiamo allo specchio e ci diciamo siamo incompetenti perché parliamo e basta. Oppure, con serietà, ci mettiamo al lavoro tutti, senza star lì a fare i discorsi periferici del 68, sindacalizzazione spinta, e diciamo, alcune strade indicate, tipo le microimprese, tipo gli asili nido, i Tagesmutter sono microimprese. Parla una che sta lavorando da 3 anni. Con l'associazione, quindi con centinaia di donne, per creare microimprese, da dove si ferma tutto, che una casalinga non ha, tranne rari casi, un reddito autonomo proprio da investire, solo spende perché si sente in dovere di spenderlo per la famiglia. Quindi noi abbiamo parlato con l'attuale governo, siamo in contatto con le segreterie e pretenderemo adesso queste risorse economiche, ma prima ci diciamo che il paese non ha occupazione. E quindi andare fuori a lavorare, no, è chiaro, non c'è lavoro. Giulia, effettivamente non c'è lavoro, che facciamo? Mettiamo un esercito di... Allora perché mandiamo le donne all'università? No, perché se dobbiamo cominciare a ragionare così, allora diciamo allo Stato di risparmiare i soldi delle donne sull'istruzione, non mandiamole neanche all'università, ma addirittura al liceo, e così le lasciamo chiuse in casa. Ma io proprio non accetto questo tipo di discorsi. Io dico, le donne sono addirittura anche più preparate a livello di istruzione, all'università sono più brave, abbiamo più laureate, e poi cosa facciamo di questo patrimonio che potrebbe servire a rilanciare l'economia del nostro paese? Diciamo, appena fai un figlio, perché qui il discorso è questo, che il discorso è che la donna non vuole lavorare, le donne purtroppo in questo paese non appena cominciano a fare figli sono costrette a rimanere a casa, e questo lo dicono sempre i dati. Oltretutto, con la precarietà che c'è in questo paese, non hai neanche il privilegio, ormai è diventato un privilegio, di poterti pianificare una nascita. Allora, anziché ragionare in questi termini e dire che non c'è lavoro, cominciamo a investire in uno stato sociale serio a livelli europei e non a livelli di paesi africani, e poi dopo vedremo se invece le donne non potranno contribuire veramente al rilancio dell'economia. E io ne sono convinta. Ne sei convinta. Allora, fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità. Cara Giulia, hai scatenato gli uomini, ma arrivano non solo messaggi in onda, anche sul telefonino. Guarda, questo non lo posso leggere. Bravo Alessandro, mio amico, io mi faccio un... così a casa, ma come fa a dire Giulia Innocenzi che poi ci scrive io arrivo a casa, cucino, lavo, stiro, insomma, ma che uomini conosci, cara Giulia, che uomini conosci? Dai, dopo la pubblicità rientriamo. 24 mattino. Allora, siamo a discutere con Federica Rossi Gasparini, presidente nazionale Federcasalinghe, con Giulia Innocenzi, collega di servizio pubblico, se sia il caso o meno di garantire uno stipendio anche le casalinghe come lavoro. Giulia, c'è da dire che un ascoltatore mi scrive: Giulia ha ragione e sono un uomo, però per la verità la maggior parte sono di critiche per il fatto che ti sei scagliata. Milan, sono andata direttamente a ritrovare il dato Istat, così calmiamo. Ma no, ma dire gli uomini non fanno nulla a casa, sporca, ma che sporca. Allora, il 71,9% delle ore dedicate al lavoro familiare dalle coppie di occupati, quindi tutti e due lavorano, è a carico delle donne. Vabbè, un 30% ce lo vuoi dare almeno? Cioè... Un po' meno del 30%, però del 30. La simmetria nel tempo è diminuita, quindi un dato positivo, ma non perché gli uomini hanno cominciato a lavorare di più in casa, ma semplicemente perché le donne hanno cominciato a rinunciarsi, quindi abbiamo le case un po' più Insomma, forti, donne, cari uomini, siete dei debosciati a casa, vi ste scendete con i piedi sul divano e alzate giusto le gambe quando passa sotto con l'aspirapolvere la vostra donna, e questo è il dato. Ecco, forse calcolavano quello i tuoi amici nel sì. lavoro familiare. Mamma mia. Va bene, dai, fatemi sentire degli ascoltatori. Antonella da Roma ci ha chiamato all'800240024. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io intanto volevo dire che chi fa questa proposta è una grande, e secondo me se veramente si andasse in questo senso si farebbe una grande favore alla società tutta. Sì. Io sono una casalinga da tanti anni, felice di esserlo, ma perché non lasciamo alla gente che ha voglia, ora io dico uomini o donne, di portarsi avanti la famiglia in santa pace e creare così, e devo dire con... si dà tanto aiuto anche a chi non lo ma fa. Ma questo nessuno lo mette in dubbio, cioè è in dubbio se debba essere pagato questo. Giulio ma Innocenzi dice di no. Secondo me deve essere pagato, perché è un grande servizio che si fa alla società. Cioè io non peso, io mia figlia non ho pesato sugli asili nido. Sì. Io ho aiutato tante mamme che lavoravano a risolvere i loro anche i problemi degli altri. Io un domani avrò tempo da dedicare ai miei anziani. Cioè, ma questo quindi lei dice faccio risparmiare allo Stato anche in certo, termini di welfare non, deve essere non, ma, non male anche questa come prospettiva ha uomini a casa? Lavorano? Un'altra cosa grande in cui mi dovrebbe aiutare lo Stato il giorno in cui i miei figli possono essere più indipendenti io dovrei stare prima nella lista a trovare lavoro, anche perché una casalinga che esce dal lavoro di casalinga può fare tutto nella società. Le chiedo questo, Antonella, ringraziarla. Ha uomini a casa e se sì lavorano? Perché adesso si è aperto un contenzioso qua con Giulio Innocenzi. Come si comportano? Guardi, si danno da fare? Non aiutano molto, non aiutano, ma abbiamo, ci siamo divisi i compiti. Giustamente io ho fatto questa scelta, ho lasciato anche un lavoro che mi dava delle risorse. L'unica cosa in cui la casalinga non è aiutata è proprio questo. È proprio questo. Un poteva riconoscimento economico. Poteva aiutarmi però a dire, a fare finta che aiutavano un po' di più a casa gli uomini. Comunque la ringrazio, Antonella. Andrea Perugia da Cristina. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Io vorrei contestare un po' anche il discorso che ha fatto la signora poco fa. Io ho quasi 50 anni, ho sempre lavorato da quando avevo 20 anni, anche un lavoro abbastanza impegnativo che mi prendeva tutta la giornata. Ho avuto un figlio, l'ho cresciuto, ha fatto le sue esperienze in asilo nido, che ho pagato caro, ma... non mi sembra giusto assolutamente che le casalinghe vengano retribuite. Perché? Altrimenti ma per una questione... io dovrei prendere due stipendi. Cioè io ho sempre fatto sia la casalinga sia la donna lavoratrice, perché nessuno mi ha aiutato a lavare, stirare, pulire, portare il bambino a scuola oppure stare con lui quando stava male. Non ho mai avuto questi aiuti. Ho dovuto sacrificare me stessa, quindi i miei spazi, i miei tempi per seguire tutte le cose che una donna deve fare. Cioè non sono stata pagata, non ho preso due stipendi per il lavoro che faccio e il lavoro a casa. Interessante, Cristina, la ringrazio. Insomma, Federica Rossi Gasparini, ha sentito, i pareri sono diversi, ci sono anche tanti ascoltatori che vogliono intervenire. Che ne pensa? No, questi erano due pareri discordanti, no? Sì, certo, comunque voglio dire, si tratta di... dare un riconoscimento economico a un lavoro fatto e che ha un grande valore, e ha ragione la signora Antonella che ha detto scarichino le casalinghe grandi costi rispetto al welfare che non c'è. Ma io vorrei dire prima di tutto a Giulia Innocenti una cosa che mi ha lasciato un po' sorpresa quando dice perché facciamo studiare le donne in università. Ma scherziamo? No, l'ha detto come paradosso, dice se devono allora stare a casa, allora tanto vale. Ma quello è un assurdo, che studiano le donne, studiamo per lavorare fuori, cioè è solo collegato ai soldi lo studio che facciamo, oppure è un valore anche personale. Ma detto questo voglio essere propositiva. Giulia, buongiorno, è stata una donna importante, presidente della Commissione Lavoro, Camera dei Deputati. Sì. La Hutchinger ha un grande seguito perché è una donna eccezionale. Non conosco e chiedo scusa Giulia Innocenti, ma ci credono che si può fare? Facciamo un tavolo insieme alla radio e portiamo un risultato. capito? Perché non è più momento di parlare, ma di è fare, momento non è niente di fare. Però, allora, vabbè, Giulia, sulla questione dello studio tu l'hai fatto come paradosso, no? A dire, a questo punto non facciamole studiare neanche le donne. Però al di là di questo, l'ascoltatrice che dice, effettivamente io faccio risparmiare grandi soldi allo Stato, come welfare, non mando le sue mie figlie all'asilo nido, li cresco io, eccetera. Questo è un risparmio, non è quantificabile? Beh, però infatti la signora era anche felice della sua scelta, poi però abbiamo ascoltato l'ascoltatrice successiva che si trova a fare due lavori e quindi si trova a dover fare anche la casalinga e ha dovuto pagare l'asilo nido caro e quindi uno stato sociale che se ne frega e l'abbandona. Io dico, se è una libera scelta, ben venga che una donna decida di curare la sua famiglia, stare a casa, pensi all'educazione dei figli, ma deve essere una libera scelta, che in questo paese non è, perché lo Stato ha scaricato lo stato sociale sulle spalle delle donne. Allora, sentiamo Emilio da Roma, ci chiama. Emilio, buongiorno. Buongiorno a lei Milan, saluti a tutti i suoi ospiti. Guardi, io porto la mia semplice esperienza di due matrimoni. Nel primo ho avuto anche una figlia, l'unica cosa che non sono riuscito a fare è allattarla. Lì era proprio il limite fisiologico. Penso, c'è anche il latte artificiale, se vabbè, quello all'ottavo mese ho iniziato anche con quello, con latte artificiale. Diciamo che io, se un giorno trovo una donna che riesce a fare l'orlo ai pantaloni, forse mi sposo per la terza volta. Dentro casa faccio quasi sempre soltanto tutto io e delle persone che conoscono. Miei amici, non c'è nessuno che torna a casa e si siede su divano nel modo più assoluto. Oh, lo dica ad alta voce. Ma guardi, se passa questa proposta, io ho sentito stamattina soltanto alla radio delle 1200 euro alle casalinghe, io mi opero. No, vabbè, si opera adesso. Non voglio sapere neanche che tipo di operazione. Vabbè. Conosco tantissime donne in gamba che sono riuscite nel lavoro. Chi non c'è riuscito perché non era sufficientemente in gamba. Non c'è nulla in Italia, a quanto io posso sapere, che limita l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Cioè, basta, le quote rose, favoriamo le donne. Hanno delle capacità, se ci riescono è un merito, se no non hanno questo merito, tutto qua. Beh, vabbè, lei è un po'. No, lei ha una posizione molto. Giulio Innocenzi, il nostro ascoltatore Emilio, cos'è? Un po' troppo maschilista. No, allora Emilio lo invito a fare questa operazione che deve fare, così vedere se effettivamente non ci sono limiti. Ma può fare il casalingo anche da uomo. Sta raccontando, Emilio. No, ma non so che mondo sta raccontando. Cioè, le donne addirittura percepiscono uno stipendio inferiore rispetto agli uomini per fare la stessa identica cosa, cioè ogni tanto ci raccontiamo un'Italia che non esiste e anche questi uomini che ci raccontano che fanno tutte queste cure in casa, fanno questi lavori, tu non l'hai visto, lì non li smentisce. Ma vabbè, ma ho capito, ma te ne presento alcuni se vuoi, Giulia, ci sono, poi ecco, non si sta a fare col bilancino 30%, 40%, sposta questo, ma ci sono, c'è l'immagine dell'uomo che arriva a casa, butta tutto sul divano e non fa niente, è un'immagine un po' retro, di tanti anni fa, no? O meglio, penso, ecco, io almeno... Speriamo. Però Milan, cercando di tornare un po' seri dopo la parentesi di Emilio dell'operazione che effettivamente ci ha fatto ridere un po', in Italia le donne sono poco occupate e fanno anche poco i figli, perché il problema è che il tasso di fertilità è legato anche al tasso di occupazione, mentre appunto nei paesi scandinavi ovviamente possono fare figli perché hanno anche le possibilità economiche, in Italia questa cosa non c'è e quindi... In Italia che tantissimi politici si riempiono la bocca con la famiglia prima di tutto, guarda caso la famiglia invece rispetto agli altri paesi europei è uno dei settori dove investiamo di meno e far lavorare le donne aiuterebbe anche ad aumentare il numero di figli per donna, quindi un altro aspetto positivo. Allora, intanto io per il momento vi ringrazio, staremo a vedere, ringrazio Giulia Innocenzi e ringrazio Federica Rossi Gasparrini. Vedremo se questa proposta avrà anche le gambe per andare avanti o se per il momento è stata una proposta lanciata da Michel Hunziker e Giulia Bongiorno, o se davvero, ecco, si può pensare in questo momento anche di situazione economica non floridissima uno stipendio per la casalinga e le casalinghe, 7 milioni in Italia. Intanto andiamo alle informazioni sul traffico, poi voglio salutare già con noi Daniele Belotti della Lega, segretario provinciale della Lega Nord a Bergamo. Belotti, buongiorno. Sono subito a parlare di questa vicenda tra un attimo. Allora, eccoci qua, Daniele Belotti, ti abbiamo chiamato perché? Allora, vicenda di cronaca che risale al 2006, Arzago Dadda in provincia di Bergamo, quando un imprenditore edile cinquantenne, Antonio Monella, uccide, la dinamica poi, per carità, non è quello che ci interessa in questo momento, la dinamica in sé, uccide una persona, credo albanese, Belotti, albanese di... Sì, un clandestino albanese di 19 anni. Che stava per rubargli il SUV. Questo imprenditore è stato condannato a quanto? Sei anni e due mesi. Allora, tu insieme a, per esempio, la Lega, ma anche il sindaco, credo, di Arzago Dadda, che è del Partito Democratico, anche se ha detto lo faccio a titolo personale, non voglio che venga strumentalizzato, avete chiesto la grazia. È il segretario provinciale del Partito Democratico. Segretario provinciale del PD. Avete chiesto la grazia per questo imprenditore. Perché, se è stato condannato per avere sparato, pare, dal balcone a questo ladro che stava per rubargli il SUV? Beh, c'è una dovuta precisazione. Questo uomo si è trovato, padre di famiglia, si è trovato alle 2 di notte in casa dei rapinatori, quindi non è che gli stavano solo rubando il SUV. Sono entrati in casa, lui ha preso il fucile da caccia e mentre questi cercavano di scappare ha sparato un colpo in aria, dopodiché, come da prove balistiche, sia della difesa che dell'accusa, è inciampato ed è partito un colpo che ha colpito quello che gli stava rubando il SUV. Dopodiché, questo però è stato non gli è stata riconosciuta la legittima difesa, sì, e lui è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario. E l'altra cosa che personalmente mi sembra veramente fuori luogo, ha un risarcimento di 150.000 euro alla famiglia del rapinatore. Voi avete chiesto la grazia perché, sì, immagino intanto per una vicinanza umana nei confronti di questa persona, però il dato di fatto è che la legittima difesa, anche se è stata modificata al codice, non vuol dire che legittima difesa è, che ne so, io vedo uno che mi sta rubando una macchina e gli sparo. Ci sono, questo per il codice, poi non mi interessa quello che uno può pensare personalmente, oppure tu la pensi così, cioè se uno dice io vedo uno che mi sta rubando la macchina gli posso legittimamente sparare. Beh, non è uno che mi stava solo rubando la macchina, uno che mi era anche uno e i complici che mi erano entrati in casa di notte con moglie e figli. Allora, la reazione in quei momenti cosa deve essere? Ah, scusa, tu hai un'arma, allora la prendo anch'io, tu mi vuoi sparare, allora aspetta, sparami prima tu, poi sparo io. Cioè, in quei momenti non stiamo parlando di criminali, stiamo parlando di persone normali, persone oneste, che si trovano in una situazione di pericolo. No, su questo la reazione emotiva non è ragionata, ma non è che lui ha invitato gli ospiti in casa sua. No, ma su questo non c'è dubbio. Oppure questi gli hanno citofonato: scusi, possiamo entrare? No, ma su questo non c'è dubbio. Lì, su tutti i processi, però, si sa come vengono poi fatti. Ci sono sentenze a favore, sentenze a sfavore, ogni caso è a sé stante. Ci sono state rapine in negozi, in gioiellerie, finite con il morto. Sì, in alcuni casi c'era legittima difesa, in altri no. È stato proprio recentemente un caso a Caravaggio, quindi stiamo parlando a 10 km di distanza da Arzago Dadda, per chiarire, una zona vicino a Treviglio, dove un caso analogo, un commerciante ha sparato dalla finestra a dei malviventi che stavano cercando di rubare nel proprio negozio e lui è stato assolto. era morto un rumeno. Perché effettivamente ogni caso è diverso. Lì che cosa si verifica se uno abbia sparato? Il fatto che abbia sparato dal balcone, certo, lo so che erano in casa, lo so che la dinamica dici gli è partito un colpo, però il fatto di avere sparato dal balcone viene evidentemente interpretato come dire non era una minaccia in quel momento il ladro che stava rubando il SUV, e appare un po', sebbene condito dalla rabbia, mi faccio giustizia da me. Il giudice l'ha interpretato così. Il sentimento popolare della gente a giudicare dalle reazioni lo interpreta in modo assolutamente contrario. Cioè, si crea così, ma anche il risarcimento danni di 150.000 euro. Cioè, vale. Questi vengono a rapinarmi in casa e io li devo anche pagare. Questa è la cosa che forse dà più fastidio, al di là della condanna, che è la cosa più grave. Qui abbiamo un provvedimento di svuota carcere che porta fuori delinquenti e una persona che ha cercato di difendere la sua proprietà, il suo lavoro, la sua famiglia, finisce in carcere. Attenzione, piccolo particolare, questo ha ucciso un rapinatore albanese. In carcere, dove di rapinatori albanesi e altri ce ne sono tanti, non sarà una vita facile per quest'uomo, quindi c'è un ulteriore pericolo. Voi avete chiesto la grazia, nel senso lo farete, lo state per fare, avete già fatto la domanda di grazia al Presidente della Repubblica? Noi ci allineeremo, come Lega non vogliamo strumentalizzare questa vicenda, infatti ne ho parlato sia col diretto interessato, a cui ho attestato la solidarietà di molti, di tutti i leghisti bergamaschi, ne ho parlato con il sindaco che è anche di Arzagodada, che sta facendo questo comitato e che, ripeto, è anche segretario provinciale del PD, per dare tutto il nostro appoggio extra partito, cioè senza bandiere, alle iniziative che vorranno fare. Stiamo raccoglieremo nei prossimi giorni con una sottoscrizione l'adesione a livello istituzionale di parlamentari, sindaci, consiglieri regionali. Ma ecco, ma perché questa persona, cioè la condanna ormai è definitiva, oppure a che grado di giudizio? No, è definitiva. È definitiva, ma quindi la persona in teoria dovrebbe essere in carcere. Sta aspettando infatti da un giorno all'altro che vadano a prenderlo. Quindi potrebbe entrare in carcere. Ricordiamo che questa persona, Antonio Monella, era assolutamente incensurata fino a quel momento, insomma è stato questo episodio che ha cambiato anche la sua di vita. Vorresti una legge stile americano più che italiano su questi tipi di episodi? In America si sa, se uno mi entra nella proprietà, insomma c'è più tutela, allora, per chi si difende. Di fronte a questa gravissima e preoccupante escalation di furti, di reati, cioè queste sentenze legittimano e incentivano ancora di più i delinquenti. Cosa deve fare uno? Veramente uno deve chiedere... Però sentenze, il delinquente, come dici tu, c'è morto, però non è che incentiva molto l'idea di andare a rapinare se ci lascia la vita. Sì, però allora noi dobbiamo garantire la legittima difesa. Una volta c'era l'eccesso di legittima difesa, è stato tolto, però in questo caso non è stata applicata la legittima difesa. In casi come questi noi, cioè personalmente, abbiamo fatto uno slogan: la Lega sta con Abele, non sta con Caino. Sì. No, ma su questo certo. Intanto saremo a vedere, noi questa vicenda continueremo a seguire. Io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Daniele Belotti, che ricordiamo è il segretario provinciale della Lega Nord a Bergamo, è stato anche assessore alla regione Lombardia della Lega, e insomma, per questa vicenda di questo imprenditore che è stato condannato a 6 anni e 2 mesi perché non era legittima difesa, è stata così interpretata il fatto che abbia sparato a un albanese che stava per rapinarlo, stava per portargli via la macchina. Ci fermiamo qui alle 8:57 minuti. Ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione e anche il nostro alpino Peter Bescapè. 24 Mattino torna domani puntuale alle 6:30.